Il punto di Stefano Folli. La frase sui figli come gli ebrei durante il nazismo è solo l'ultima delle gaffe in cui Berlusconi è incespicato nel corso della sua vita pubblica. Questa certo è particolarmente di cattivo gusto, ma c'è anche di più. È una frase che rivela come l'ex premier stia perdendo la lucidità politica e quel senso misterioso del rapporto con l'opinione pubblica che è stato la chiave del suo successo negli anni. Oggi è un uomo provato che non riesce a fare quello che davvero vorrebbe, buttare all'aria tutto, correre alle urne come ai vecchi tempi e curare tutti i guai con un bagno elettorale. Invece è costretto ad accettare che la linea la faccia Alfano sostenendo il governo, mentre lui un passo dopo l'altro scivola fuori del Parlamento, senza sapere cosa il futuro porterà a lui, alla sua famiglia, ai suoi interessi economici. Da mesi la progressiva impotenza politica di un uomo che è stato potentissimo è l'unica vera chiave per capire cosa accade nei palazzi romani.